Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno per Montecitorio e dintorni. Quest'oggi abbiamo con noi il vicepresidente della Camera del PD, Marina Sereni. Buongiorno. Buongiorno a voi. E subito andiamo a commentare quello che sono state le parole di ieri di Beppe Grillo, che ha detto che il Parlamento è una scatola di tonno vuota, o lo seppelliamo o lo rifondiamo, non serve a nulla, spossessato del suo ruolo di voce dei cittadini, simulacro, tomba maleodorante della Seconda Repubblica. Che cosa ne pensa Marina Sereni? Ma io vorrei sapere che cosa ne pensano i deputati del Movimento 5 Stelle che sono in Parlamento, che due giorni fa tutti insieme hanno votato con noi il decreto sulla pubblica amministrazione per i pagamenti della pubblica amministrazione, che ogni giorno provano a fare i parlamentari. Io davvero non capisco la posizione di Grillo, è un leader che ha voluto entrare in Parlamento, che dice di voler cambiare le cose e poi ogni giorno distrugge ciò che avviene in Parlamento, anche quando questo ha il segno della trasformazione, della riforma, del miglioramento delle cose per i cittadini. Allora io credo che ci sia molta confusione nella testa di Grillo. Le elezioni amministrative forse hanno dimostrato che non basta la protesta, che non basta lo slogan efficace, che non basta la rete, non bastano nemmeno i comizi. C'è bisogno delle proposte e mi sembra di percepire anche nei suoi parlamentari un certo disagio. Nel suo partito Stefano Fassina dice che Grillo è inaccettabile ed esprime una cultura fascista. Lei reputa Grillo un fascista? Ma guardi, io reputo sempre difficile giudicare, ma le parole di una leader politico, perché Grillo si è trasformato in leader politico, che parlano del Parlamento in quel modo a me sembrano offensive. Io sono vicepresidente della Camera, insieme a me ci sono dei colleghi appunto del Movimento 5 Stelle, io spero che quei colleghi si dissocino da questi toni e da queste parole, perché se si sta nella democrazia si deve rispettare le istituzioni della democrazia. Ecco, Brunetta ha detto, capogruppo PDL alla Camera, ricordiamo, è terrorismo linguistico, deve intervenire Napolitano. Non tirerei sempre in ballo il presidente Napolitano, che ogni volta che apre la bocca e comunica ai cittadini il suo pensiero invece trasmette grande senso delle istituzioni, grande senso dello Stato. Quindi io in questo caso davvero vorrei che sentire la voce dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, perché c'è uno scarto tra l'ambizione con la quale sono entrati nelle istituzioni e le parole del loro leader. Quando finalmente se ne renderanno conto, credo che sarà un momento utile per la vita delle istituzioni. Ecco, si è fatta un'idea di questi due deputati fuoriusciti, due deputati tarantini, Labriola e Furnari, che dicono noi siamo fuoriusciti perché il movimento non è più quello che era stato promesso, noi vogliamo un po' la libertà, mentre praticamente Riccardo Nuti, che è il capogruppo in questo momento del Movimento 5 Stelle alla Camera, dice ma no, loro volevano tutta la diaria e poi non hanno mai parlato dell'Ilva, insomma sono un po' due lavativi. Non voglio entrare nel merito perché non conosco le singole persone e non mi piace commentare il dibattito di un'altra forza politica. Noto però un dato che ho appena detto, tra i parlamentari del Movimento 5 Stelle c'è un po' di sofferenza, anche perché un leader che è fuori dal Parlamento e da fuori attacca continuamente il lavoro che fa nel Parlamento, non mi pare che sia una grande garanzia di autonomia, di libertà e anche di capacità dei singoli di determinare la loro presenza nelle istituzioni. Quindi penso che questi due casi siano la punta di un iceberg. E per lei ci saranno altri fuoriusciti? Ah, questo non lo so, né mi interessa. Io spero che il Movimento 5 Stelle, oggi presente in maniera consistente nel Parlamento, decida, per usare una parola usata dal Presidente Letta, di scongelarsi, decida di mettersi in gioco, di fare delle proposte, di misurarsi concretamente sui temi che di volta in volta il Parlamento dovrà affrontare, dalle questioni economiche e sociali alle questioni delle riforme. Per non essere accusati di essere parziali, andiamo a vedere cosa succede nel suo partito, nel Partito Democratico. Insomma, in questo congresso Renzi si candida, non si candida, è praticamente l'alter ego di Letta, cosa succede? Succede intanto che il nostro è un partito vero, un partito che discute, che si misura, che vota quando c'è bisogno, anche scegliendo a maggioranza la linea da tenere su questo o su quel tema, come è stato nei giorni scorsi a proposito delle mozioni sulla riforma istituzionale. Io credo che Renzi sbaglierebbe se pensasse di trascorrere i prossimi mesi punzecchiando il partito e il governo. C'è un governo molto speciale, fatto dalla convergenza di avversari politici, ma presieduto da un esponente di primissimo piano del Partito Democratico. Quel governo ha scelto alcune priorità: l'attivismo in Europa, il lavoro, i giovani, l'impresa, e credo che siano priorità che il PD non può che condividere, perché sono anche le nostre priorità. Allora il PD dovrebbe sostenere questo governo con lealtà e anche con una buona dose di autonomia nella capacità di proporre idee, provvedimenti, e credo che sbaglierebbe chiunque, non solo Renzi, se invece stessimo lì ad aspettare con il cronometro in mano che il governo finisca il suo tempo. È un governo che serve al Paese, e soprattutto serve al Paese fare le riforme istituzionali. Il disegno di legge costituzionale che ieri è stato licenziato, nei giorni scorsi è stato licenziato per cominciare il suo iter, ci dice che abbiamo davanti un cronogramma, una tempistica molto stringente. Non rischia di essere un guscio vuoto perché poi viene soffocato da questa diatriba sul semipresidenzialismo? Se usciamo dalle formule non sarà così, ci sono 35 esperti, costituzionalisti, giuristi che hanno anche diverse opinioni nella materia, ma questa non è una materia che si può ridurre ad un sì o ad un no, ad una formula o ad un'altra, questa è una materia che va approfondita, che va mediata. Se i padri costituenti e le madri costituenti avessero scelto di non discutere a fondo e di non trovare dei compromessi, avrebbero fallito. Ecco, noi dobbiamo avere un po' quell'ambizione. Io, a me la parola pacificazione non piace, però non mi piace nemmeno l'idea che se una proposta può essere condivisa tra centrodestra e centrosinistra, allora quella proposta solo per questa ragione è sbagliata. Io discuterei con mente libera, sia con ipotesi di mantenimento della forma di governo parlamentare, sia con ipotesi diverse, si possono avere sistemi equilibrati e sistemi funzionanti, e questa è in fondo la lezione che ci ha lasciato Leopoldo Elia: non esistono sistemi buoni o cattivi, ma esistono sistemi equilibrati o squilibrati, e noi da qui dobbiamo partire. Allora ricordiamo Marina Sereni del Partito Democratico, vicepresidente della Camera. Per quanto mi riguarda, un appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.